lo sai tu che quando l'ho trasferito l'ho portato via con la poltrona? Questo lo so, non poteva essere rilassante, altrimenti dovevo fare un intervento per dividerlo dalla poltrona col biscuit, è un casino. No, non essere cattivi, glielo dico anche in faccia, per carità, perché non è che stai a criticare potere, ma lui è proprio, chi l'ha conosciuto, chi l'ha visto, non l'ha visto, è una cosa allucinante. La poltrona ha preso la forma proprio. Sempre lavorato. Sempre, o cippando PlayStation, o masterizzando, sempre, no, per quello è una gamba attore. Ecco perché ti dico che come ministro sarebbe stato molto, molto attento a non perdere il posto. Altro che Andreotti, la poltrona è uguale. Ti sarebbe inventato il travaglio uguale. Ah, lavorando fisicamente no, così facendo lavoretti così sì. No, non poteva farlo. La parte più grande è questa, la briciola di pane. Ah. La parte più umana è questa, la briciola di pane, a pezzi delle dirle. Chissà che non senta fischiare le orecchie, vince il tuo Chopin. Perché era una buona stazione, va il Comfort, il 35B anche. Ci va bene. Aveva un difetto, perché c'era la Roma degli altri. Solo che la bassa non ci arrivava la trombata. Infatti. Sempre passeggiando con lo sgambello. Oh Gianni, ma tu perché gli hai dato il tagliere a Claudio e il coltello a Walter? Io glielo dato, sarebbe da piedi. Ce l'ha dato perché lui è rimasto col pugnale in mano, troppe cose non poteva averle. No, ma guarda, ti mi penso a creature, dice. Forse magari a Gianni gli è rimasto smanico, ha dato la lama a Claudio, ma la lama a Walter e il tagliere a Claudio. Era micidiale, come scintillo, ora di ferro, partiva in quarta. Ma l'ultima, quella si era fatta così, la sala del gabbo di un menetrino, come tre cose, come si chiama quell'altro? Tole, aiutami qua. Guigio. Via. Scrava, sto mettendo la metto con la parola alla bocca. Tole Guigio era bravo lo stesso. Ti posso vedere le macchine, sempre correndo. Un giorno va a Rusi, lo chiamo, non mi risponde al baracchino, al telefono mi ha risposto uno, guarda il furgone è con le ruote in alto, l'antenna è filtrata in terra. Comunque, guarda, adesso te la racconto una, io ho fatto un lavoro per un amico lì dove abita Tore, no? O perlomeno dove abitava, adesso non so se ci sta ancora, credo sì comunque. Con mio collega di lavoro, gli ho fatto un giti, però stavamo parlando dei baracchini perché così giusto. E poi cazzo questo Tore Biggio adesso lo vorrei conoscere, io lo sapevo già che era lui. E poi perché? Molto ci vuole conoscerlo, sto composo, no? Cazzo, ma ci vuole che mi sta sui coglioni, mi ha detto che tiro muscolo, è proprio. E l'ha fatto Tore Biggio, guida in fuma le cose, della di promotore, come si chiama? L'arruraggio catturno. Bisogna che ci spottiamo quando passa. No, è da un bel mica c'è. Da un bel, una volta siamo trovati da Cida lì. E abbiamo bevuto insieme anche. Però si trova bene. No, beh, faceva il camion, un furgone a Bartolino, cosa stai dicendo? Una bella fiorina, un casomato, faceva trasporti di giornale, una cosa del genere. E prima lavorava così, adesso sta lavorando da lavoraggio e cattura, poi dai pullman, quelli gran turismo, quelli a portare turisti, non da usare. Fatevi la croce, scrivili nell'ingresso. Ma però in fondo già, lui è una brava persona, dai, bisogna conoscerlo. No, non è cattivo Torre, assolutamente. No, era un amico, figurati se non lo conosco. È la stessa di prima dove c'era lui. No, Tore non è neanche l'altro Tore, neanche Tore Chopin per carità, niente da dirgli, poi uno usa, fa lo stile di vita che meglio crede, o che si può permettere, o che nella vita, camminando nella vita, in base alla fortuna che ha, lo fa, non c'entra niente. È che quella poltrona è rimasta impressa a tutti i cibi di quel periodo, non c'è l'avverso. Chi è Luca questo? Lo passo da te. Se non me le chiedo neanche qua, c'è 9.40. No, c'è 9.50 io. Sì, vabbè, ma tu sei 9.40 qua. 9,50 sì, esattamente. Cosa hai riattaccato? 9,50? Sì, sto usando il mio 9,50, perché sotto per radio l'ho messo su così, è un casino. Devo fare un riassetto generale. E io la sia 9,50 che c'è bene da lì. Con quella bestiolina già va bene. Sì, sì. Va bene, sì, questo poi lo porto a dare una controllata perché ha un condensatore in perdita e quando sta acceso un po' di tempo se lo fa subito proprio, eh. I segnali musi da 9,50, 9,60 mi dicono a 9. Dunque è come che inserisca un'attenuazione di 20 dB, allucinante. E poi ha la GC molto lento, non riesco a capire come diavolo cambiarlo perché quando parli tu o Pino, anche Gianni che arrivate con segnali alti, quasi come il salto del ricevitore, quando mollate non è istantaneo, capito? Scende lentamente, dunque se c'è una stazione sotto con un segnale 3-4 come ogni tanto cazzo non lo sento subito. Vai. Un attimo solo che vado a mangiarmi un pezzo di roba da bovella. Che schifo che fa. Tu puoi sto mangiare, vado a mangiare una fiesta, le prendi. L'altro, tu non ce l'hai un erbalaio? Io sì. Oh già, ma a me lo trovi da dieta. Raga, per me mangiare è un piacere. Ah, non è un sacrificio. Mia moglie dice che lei mangia per vivere, non vive per mangiare come me. bisogna prenderla per com'è. Ha letto qualche opuscolo di Arbalife, quello era un detto degli animali, perché gli animali non sono grassi, perché gli animali mangiano per vivere, non vivono per mangiare. Qui ci sono anche gli animali grassi. E il gatto di casa tua? No, vedi, maiali. Quelli non sono grassi, quelli sono così, se sono magri sono malati. Anche il gatto comunque, perché ha visto a me mangiare con un trappettito. Ma no, vedi che sbagli, l'animale prende le sembianze del padrone. E appunto mi sto mangiando, ma mi lascia di andare a mangiare. Ciao, già, ciao, buon appetito. Ciao Gian, l'app della fame. Sì, anche io fra 2 minuti, là. Ma io la verità non sto più cenando da sé, e sono sempre bello pieno, fai più movimento. Adesso vediamo un po'. Casino. Daniele, cosa hai detto? Io stavo finendo di mangiare, sono fatto un panino con le uova adesso e me l'ho finito, me l'ho pappato. Ma tu te lo puoi permettere, pesi 20 kg. Aspetta che saluta Daniele. Ciao Daniele, scusa se non ti ho salutato poc'anzi. Sì, perché a me mi hai salutato, ma se ce ne varia. Allora, a prescindere che io ho detto ciao a tutti, poi non ho sottolineato a chi, comunque, ritenete per tutti salutati. Non c'è problema, ciao! Ma il problema è che a Daniele l'hai salutato in diretta. Oh, ciao Luca! Però non hai salutato a Franco California, Teresa che sono in ascolto, a Filomena, a Anna, a Mimmo, quello di Alghero, come si chiama, via dicendo. Sono mezz'ora facendo ping pong e tutti in ascolto sono. Tutti. C'è il rettificatore con Natalino sul canale alto, ma non si fotoporno, via dicendo. Gaietti. Va bene, ciao a tutti anche gli avventori e sculture allora. No, poc'anzi non sono voluto entrare perché ho sentito vabbè, quando me lo ricordo te lo dico, Walter, dai. E te lo dirò anche in parole mie. Hai sentito a chi? A Joker? No, a Teresa, che stavamo disturbando. Anzi, stavate perché io ancora non ero entrato. E quindi non riuscivo a guardare la televisione. Per carità, io l'ascolto anch'io. Poi non disturbo, a lì punti non gli arrivo al punto di saturarli. Quindi? Solo quando sono al monte, anch'io, in quella zona, allora. Un po'. Mi sente già nel doppio lo smitter. Luca, Flipper. Già sono nascosto, sto segnando tutto. Ah, anche tu come me un tempo che avevo la Bibbia era. Sì, il libro del bordo, cioè. La Bibbia, il libro. Ah, oh, salva nessuno. Le devo far schiattare, eh. Adesso sono piccolino, quindi. No, no. Adesso sono gli altri che fanno schiattare a me, hai visto? C'è un buco tu. Vabbè, dai, altro che un tema di altri 2 metri. Ma vedo tu la piccola mezza. Ah, che cacchio va a sorte. Già questa antenna è... Che zona sei tu qui? Divoratomelo. Io sono dietro il fornitore dell'Agip scendendo a Platamona. Praticamente all'uscita delle... della Peoce. Ah, poi scende c'è col distributore. Rocca spaccata lì. K, così si chiama, così la chiamano. No, io non riesco, poi andare col radio. Accidenti. Lì c'è Franco, il mio artista, Franco, quello che ha la fabbrica di Rodio, Rodio Sasso. Oh! Non lo vedo mai col Fuglione, che fa ancora di sera, per quello non lo so. Però sali e arrivi fino a passaggio a livello. Io sono lì per lì, dai. Non ho visto un'antenna in quella zona, ho capito. E ve ne solo una. No, ce n'è più di una. Dopo smettere come ti arriva? Non lo so. Fai. Va a vedere. Ehi, sei quasi 20. No, ma troppo sei tu, Walter. Io pensavo che più o meno stivati. Claudio, io e lui, siamo più o meno in zona. Ma i punti ti ero più forte però. Sì, sì, sei il più forte. Da parte mia. Sei 9.40, gli altri arrivano 9.20, 9.30. Luca 9.10 e Luca Flipper intorno ai 9.10. Forse siamo più vicino per quello. Vabbè, a parte sto facendo con potenza anche. Però segnali sono quelli. Capo. Vabbè, io sono con 20 fissi, Claudio, cosa stai facendo? Claudio, sta mangiando la merendina. Beh, signori, dai, mi avete fatto venire appetito, quindi non vorrei perdere la linea, quindi anche io vorrei fare un po' di carica. Poi se ci siete ancora, se ne ho voglia io, ci risentiamo. Se no, avetevi salutati, alle prossimine. Ciao, riprendi il Walter. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao, ci sentiamo, non c'è problema. Non lo so, io dopo non ci sarò. Poi voglio uscire, voglio provare, metto l'antenna in macchina, voglio provare una radio dalla macchina. Se mi dà l'umore. Se coincide, se ti ascolto, te lo farò sapere. Bye bye. Oh, Luca, Flip, dopo mi due vicioga, Luca. E via. Sei domani, dai. Ciao. E via, ciao a te. Ciao, sì, no, ecco, ciao. Ciao, ciao. Chi è che è andato via? Sì, no. È rimasto? Tutti quelli che non sono andati a mangiare. Io sono andato e sono ritornato pure. Io ho dato, diciamo, forse un pezzo di pizza, ma sono mangiata, non ho mangiato più di tanto. Mi sento tranquillo adesso. Lui gli ha detto, siete a tavola e mangia come cristiano. Ho detto, no, questo non lo lavorate. Ma freddo sta facendo? È abbastanza. Senza andare a sentirlo adesso. Mi tocca accendere il riscaldamento. Ah, ma dove sei? Agli punti. No, non sei agli punti, sei qua. A casa, agli punti, sono cosa lì. Agli punti, sì. E allora? Vai, vai. Come? Ci credo. Claudio, dove sono? Quali sono agli punti, ti ho detto. C'è a morte, insomma, cari punti, prendi la chiamata più bassa. Ah, adesso sono più forte perché sono ai punti. Sono più forte perché sono al monte, secondo te? Sì. No, hai capito niente, sono ai punti, o dal monte. Sì, ci vuole prendere in giro, va. Non hai sentito più il muscolo, perché arrivo più forte di tutti. Non più, vedi di fronte. Dai punti. Ah, bravo. E fa la forza la sedia, raga. Sì. Ma non mi credete mai che non dice la verità. Ma sei più forte di Gianni, anche. Ma era più forte di Gianni. Forte di Gianni adesso. Perché Gianni sta facendo basso. Come arriva adesso? Com'è il segnale? Fai. Ce l'ho per 20. Con un watt. 9.5. Hai visto. Cosa già? Io con un altro mezzo sto per Treviso. Fai. Prova. Fa passaggio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sì, 9, 25. Pieno. Hai visto? Guarda, ti ho battuto. Lo so, così sono un po' più alto. Perché non vai 30? C'era un bello smitter con l'apparecchio che ti avevo fatto vedere, che ti avevo lasciato. Quello era un bello smitter. L'ho lasciato a Luca? Sì, l'ha dato una controllata, un sistema. Adesso devo buscare uno a Daniele, l'ho sentito stasera, ma non sono a Ragli. Devo cercare uno con il mio quadruplo. Semplice. E capo, ora ti volevo chiedere poco fa, capito Walter? Già l'ho capito. C'è un Pussycat, che bello, però questo qui devo vedere se mi è rivelato, se no devo vedere, però vediamo. L'ho visto Walter, quello giapponese. Quale? Quello che lo smitterò fondo come il Magnum. Come il Magnum e come anche lo Zachary, il Jackson, quello che è tu. Vabbè, e lui l'ho visto quello della barra mobile piccolino, che non è che abita tanti cani, ha 23, però è bellino, c'è la mano con la grande. Siamo più stati dove la canale, sei sempre su canale 10, io. Tanto se vuoi dire cose importanti prendi il telefono. Non so, ma magari a volte ti piace perché ci sono altre persone, capito? Ci sono questi altri paesi, roba del genere. Paesi di montagna, di valle. E allora tu perché ti devi prendere questi tempi con mille canali? Ma io non ne ho con mille canali, la maggior parte dei miei sono 23 canali. Sì, ne hai anche. Quanti canali c'ha la Fayette? La Fayette è la messa 200. Quelli ne ha solo due, ne hanno 200, 100 sopra, 100 sopra, 25965 e 28005. Hai visto? Forse io non mi ricordo di aver visto apparati che ti segnano 100 canali. Solo l'MS200 e poi mi avevano rubato 10 anni fa una Gain Quinto, quella che aveva il bip con la quaglia, però c'era una versione di quella Gain là che lo facevano identico all'MS200 come canalizzazione, però era sempre la forma della Gain Quinto. Se te lo ricordi, quello che aveva la quaglia 120 canali, avevano fatto un modello che era 200 canali, me l'avevano venduto a me, Paolino Genargento, si chiama De Muro, Paolo De Muro, l'aveva venduto lui, era una modulazione, oltre a tutto era mostruoso l'apparato, l'ho messo in un turbo verde, è uscito fuori dalla banana, sono andato la sera, non c'era più niente. Luigi, quello che faceva DJ che lavorava stasera in radio, te lo ricordi? Quello che faceva DJ anche, con gli occhiali, non so se te lo ricordi, lavorava da Paolotto. Sì, da Paolotto, Paolo 9, per Viale Umberto all'angolo, già lo conosco, De Montis. Esatto, l'ha venuto lui, l'avevo fatto l'esclusione per il beat, solo e basta, era nuovo, ancora mi scatta, lui l'aveva fatto la modifica per escludere il beat, fa un tastino piccolo, piccolo, ma così lo vedo. Io ce l'ho nell'MS200 l'esclusione del beat, nel tasto CBPA, lo sposti in PA e non c'è più il beat. Quindi si può fare? Beh, per forza. Poi c'è che non era escludibile il beat, come dice te, lo usi. Te lo faccio vedere il mio. E lo porterò sicuramente a Massimiliano, glielo faccio mettere un bip come si deve. Anch'io a Massimiliano glielo metterò un bip come si deve. Andare. Devo comprare il Pussycat, penso che sia l'unico. E che antenna li metti poi, Daniele? Adesso devo vedere, Walter, se metterli, come sto dicendo stamattina, la Mantova o quella che mi stavi dicendo tu. No, quella mica tua, la Grand Play mettili. Ah, a lei, adesso vediamo, non so perché abita al come si chiama, al primo piano e quindi non so neanche se dicono cosa, capito? Allora no, ho l'antennino interno. Beh, cappa, ho l'antennino di macchina di piazza, boh, adesso vediamo. No, una boomerang. È già troppo alta come antenna, ma lì arriva al piano di sopra, gli arriva la signora. No, ho l'antennino interno. Cosa spara con l'antenna no? Se gli fanno scendere la Grand Plan con un RG58 che non è un casino, con due sughe. Ah, il capo ti ho trovato, Daniele, se tu ricordo, me l'ho messo da parte. K. Una Grand Plane, una RG58, secondo il piano che la fai in un attimo. Sono andato da Fusale, ho comprato il pezzo della Grand Plane, di quella che hai dato tu a quello di Usi. Ah, l'hai trovato? Sì, anzi, qui l'ho guardato, non so se mi sono ricordato. Ma te l'avevo data a te? L'ho comprata io. Ma te l'avevo venduta? Niente. Allora, sì, ce l'ho, il capo però per cazzo non lo fai scendere. All'interno del tubo. Sì, e poi è parallelo al tubo, entra tutto dentro il tubo sempre. E allora, entra dentro il tubo, poi gli fai un buco per farlo fuoriuscire. No, perché lateralmente, no, alla fine li fai, o lo fai uscire da sotto direttamente dal tubo, lo fai tutto internamente così non si rovina nemmeno, e poi lo fai uscire da sotto al tubo. No, questo non sono io, non è da porcheria. Già esce. Sto dicendo. Ma il tubo lungo l'ha preso? No, è una staffa che ha... è dedicata proprio per quell'antenna, l'ho trovato. Ha sei furi. Però il bullone ne metti quattro, al centro dove manca quel bullone non glielo metto, siccome il palo di sostegno di sotto è molto più grosso. Comunque questo si apre e il cavo lo fa uscire di sguincio, sì, se no non ha senso. Anche da sotto lo puoi far uscire il ratto, tanto rimane dalla staffa, rimane da tutto, rimane solo il ratto, quindi tu lo fai uscire da sotto e poi lo fai continuare normalmente. No, vabbè, è un sistema di merda, non va bene, da sotto, secondo il tetto che si, sai cosa ci vuole per passare il cavo sotto, lungo il tubo, non è semplice. Se sei tu che sei duplicato, cosa non è semplice, già scende, tranquillo. Basta che abbi pazienza, tu non hai molta pazienza, fate quello. Hai capito. Lo prendi, Daniela, Stefano. Te lo faccio io quando mi dai. 2 secondi te lo metto. Attacco alla guida e lo tiro. Ma sono già le 10. E io. Allora, adesso mi è volato il tempo. Vola qua. Qua vola. Beh, adesso Walter ci dirà com'è questa antenna, come va. Non so di chi era quell'antenna, Walter, mai usata, sempre ferma nel cielo. Questa c'ha anni, perché non la fanno più. Quella è la famosa LEM con i radiali 275, quella che batte bombe. Quella lì. 500 watt tiene però. Vabbè, se li chieda. Agostino mi ha detto, guarda, in garage ho comprato la LEM da quando ero CB. In garage ce ne ho una, che ancora ce l'ho fanata. Se ti interessa, te la compri. E me l'ho comprata, poi devo piazzarla. E poi tutti mi hanno detto che faceva TV, questo e quell'altro, non l'ho piazzata, ho messo la manto. Ma sicuramente è meglio la manto. Sì, beh, c'è il 77 aspetti, sì, ma dico, la Grand Prix non era da buttare, prima era una signora antenna. Sì, la me, la prima che avevo montato nel 70, aveva 3 radiali e il bulbo verde, mi ricordo, il metro resina, c'è questa antenna. Ricordi che si metteva l'imbuto al centro. Quella poi la facevano per la Stardust, più che altro. Ok. che ci faceva scivolare l'acqua, non so. Non era al centro di tutto i connettivi dall'inizio fino a giù al polo, al bulbo, diciamo, perché così scendeva l'acqua, più scivolava l'acqua, la vulcanizzavi, durava di più, non si ossidava. E al centro, al radiale centrale, volevo dire. No, lì non sono mai messo. No, io l'ho avuto da pochissimo tempo la Gran Plena. Lei me la vedevo sempre, come vedevo quella, ti ricordi quella c'era laico lì, quella Sant'Orso, una vita. Ma c'è ancora? Sì, 30 anni c'è. Io non so, è tutta carta buzzavari, ma c'è. Non c'è più il puntalino centrale, perché quello si rompe prima, ovviamente, è più esposto, però c'è, c'è. Ah sì, quella la usavano con il camion. Quella che c'è lì in basso a Viale Umberto. Insomma, la Gran Plaine rimase a pizzi. E io mi ricordo in parte anche chi c'era, adesso non è andato più, ma chi mi ha saputo tutto. Ce n'era anche una via Sorso, quella lì, Romeo. Ah, Romeo è diventato un grande attore, un Giulietta. Non quel Romeo lì, sto dicendo Romeo, quello di Piazza Colonna Mariana, no? Ah, Romeo quello un po' cieco. Esatto. Cecoslovacco, che fine ha fatto qua? Non ho più sentito, era gelosissimo della moglie, mamma mia, se parlavi con la moglie si incazzava con la moglie. C'era come lui? La moglie cieca. Tu dici c'era come lui, certo che. Vabbè, ma ci parlavi solo, non è che facevi niente di male, ci discutevi, oh, non ti ho messo a fare mogliare, mi sono come si incazzato. Si vede che l'hai guardata con uno sguardo spermatozoo e con lui la parola mentre si incinta. Per carità, vedi che personaggi quanti ce ne sono stati. Mi ricorderò sempre di Gambero, che tanto lo faccio con la messa. Gambero ha passato un periodo per la moglie. Signora Gambero, vai, girami di coglione. Te ne ricordi quando ha preso quel giorno che ho preso il microfono e li dai tutti i colori a ma signora Gambero, suo marito ha messo incinta mia cugina. E Gianni Luna è solo? Sì. Perché? Dice che lavoro fa, dice lavoro a sabbia, che se ne risa. È un pazzo già. Lui viveva da queste cose. Come era arrivato non l'aveva nessuno sentito, ma quando era il 27. Come entravano personaggi del genere. E la notte la guerra con Pier Giacomo, Fanto. Sì, perché lui di carattere è pettegolo e quindi di Biagi di chissà cosa, ma su Biagi me è già la vita. Sì, vive. Ci faccio la pisciata. Dani, ascolta le storie. Già mi sta ascoltando già. Ma che già ne mi sta ascoltando? Speriamo. Non sono preoccupato. Qua sotto, là. Io non c'è per prendere l'esca. Mi ha detto, carissimo straniero, guarda, mi sono comprato una radio solo per ascoltare a voi. Qui, stavo parlando a Franco, California. Mi ha detto di quando non ci crema a Franco. Ma come riusciamo a... Carissimo, 12 volte, alla 12ª volta, 12 volte in un anno, quindi 24 volte sono andato, perché era due volte là, alla 24ª volta mi ha visto, tocco, mi ha detto, lei cosa è venuta a fare? Gliela diamo, vuole essere avvertiti senza fare l'esame. No, mi ricordo quando lui aveva il salento, ti ricordo il microfono, non entravi molto tu, allora questo salento ci aveva comprato un BV-131 vecchio, lineare, eravamo a Puntiglia, un Vittorio Sono, cioè lui è entrato, era accostato, poi si sentiva un'esplosione, gli è scoppiato un condensatore dentro l'intico, ha fatto tutta la stanza nera del fumo, è entrata a Sina Grazia e l'ha colmato e l'ha picchiato. C'è un ricordo quel particolare. Che quando è andato a Uggio? Voglio andare a conoscerlo questo pochino, che ha messo incinta mia sorella, è andato, tornando in macchina, ma non so dove c'è sceso, vero? Sapere, per carità. Poi si addormentava con quel respiro, asma lo chiamavo io. È vero, non lo ricordo, posso dire io, questo c'è la parola a bocca. Mistico Gianni. Eccola. Eccolo dove è rimasto il microfono aperto. Sì, la volta. Ma per lui c'è la tutta cosa grave di gramoglie. Ah, oh, sì. Mentre stavano... sentito tutto, poi se l'abbia fatta apposta lasciarla aperta, non lo so. Poi uno c'era che, siccome dicevano era cornuto qui e là, allora ci faceva sentire ogni tanto i respiri e le cose, capito? Ma era un bambolo, era. Poi chi c'era? Morigliani, Giovanni, l'avevano esonerato a militare, perché quando dicevano attenti a sinistra, lui c'era con la destra. E dico da Modigliani con la sicchetta. Con il luce, non era sta a destra, non riusciva a girare. No, non l'ho più visto, no? Non ci deve essere più assa, se abitava prima lì, la strada per Alghero. Lì. Abita Tergu. Oh, non ci abita più assa, la moglie Angela, mi ricordo. Io l'ho frequentata molto a Giovanni Modigliani perché era negli scout. C'aveva i figli negli scout e io ero assessore di primo, quindi l'ho frequentato, l'ho conosciuto bene. Poi c'erano Icchia, che è la te li ricordi? La moglie di Melenina? Non lo so. Ma Melenina che noi abbiamo avuto un volontario che si chiama Merendina, lo chiamavo Merendina. Merendina, Itria, la moglie, un pittore. Ah, e quello lì è che ti stavo dicendo che va con l'antenna 275 col mollone grosso. Sì, il registro. Non lo so, no, sì, è uscito da una fuga da gatto negli anni 70. Avanti il break. Buonasera, ciao Walter, ciao Claudio, ciao Gianni, e poi chi c'è? Lì ciao a tutti e finimi là. Ehi, che bello, ciao a tutti. Sono poi iniziato a dire, almeno mi ha salutato. Poi Luca si mette a piangere, inizia a fischiare. Papà, va bene. Fra, siamo un po' di revival stasera. Le voci? Ho visto a Zagaia, il papier Giacomo, di questa antenna, gli ho preso un baracchino. Non riesco a convincerlo. Ha detto che quando gli viene a voi lo fa, adesso non è voi, manco sentito. Papier Giacomo, quello che c'è a Fiorino, la barbetta. Eia. Poi ho visto Agostino, quello che esce col furgone, col Vivaro, come si chiama. Quello della Gran Play. Anche con chi era? Non ricordo, forse con Franco, non lo vuoi sentire lo stesso. Vabbè, c'è gente magari che non interessa più. Vabbè, comunque noi siamo qua. Siamo qua a parlare, quindi vuol dire che ci interessa ancora di farla rivivere questa 27. E bisogna però ampliare un po', sennò non ci sono spettacoletti, è poco. E già ve ne sono bene, ma che siamo in pochi, figurati da buco. Appunto, si perderebbe. Sono le 10:15. Ascolta, esco un attimo in macchina perché devo andare prima in brasiliano. Provo dall'altra macchina, quella che non uso mai, l'antenna. Devo fare una prova, se non ci riesco. Tanto ce la mi date. Avanti, Franco. Vabbè, ce la vediamo. Prova, prova, a volte, già siamo qua. Come fa? Niente di fatto? Sì, è già pronto, lo sto formattando. Ah, e beh, cos'era? Sì, un po' di casino c'era in quel BIOS, però tutto sistemato. Adesso partirà al volo. E appaga, non ce ne portare di cose, ci porti direttamente quello. Sì, tipo quella è la pastiera. Va bene, va bene. Adesso se ce la faccio, adesso sto aspettando che finisca di formattare e poi gli faccio una contatta generale e poi domani me lo carico in macchina e domani sera come esco te lo porto. Vabbè, K, avanti Daniele. K, mi stavo qua, ma inzambioccando mi stavo Lo so, perché sono storie che tu non conosci, ma noi le viviamo proprio perché 35 anni fa noi parlavamo con questi apparati, capito? Non per le vostre storie, le sto ascoltando con piacere, no, proprio perché mi facendo l'ambiocco. Quando non è stanco è così. Cioè, Daniele, chi viene l'ambiocco che già l'ambiocco. Vedi Luca gli è venuto l'ambiocco e si è già addormentato. Quando parlo io lui le viene l'ambiocco. Claudio, basso stai uscendo. basso e 20 watt, 20 watt e 5 watt, ma quando un muro lo cassare. No, perché stavo guardando lo smittere di 9, cioè poi si aggancio altro apparecchio perché mi sembra strano. No, non è troppo basso, questa è la mia normale quando sono così in città, 20 watt, 25 watt, ma quando parlo già sale. E adesso ho commutato un attimo con l'altro e voglio vedere se è giusto. Parla. Sicuramente c'è qualcosa che non fa, forse è troppo sedativa quella, non so cosa stai usando, la timbrica è sempre la stessa, ma non so, comunque vedi un po'. E di poco, qua sei 9, là sei 9 e 10. Adesso me la regolo un attimino, giusto per fare una prova. Adesso me lo regolo un attimino. Gamba, questo è così. Sto tenendo basso, diciamo, la 29 watt, già va bene. Mi interessa più la radio, intanto arrivo lo stesso a tutte le parti, non c'è problema. No, per la radio è uguale. No, perché è giusto perché ho dato uno sguardo allo Smith, siccome di solito mi arrivi 9,20, 9,25, ho detto sicuramente sto scendendo più basso. Sto scendendo più basso però è di 10 punti più sotto. Vabbè, un attimino ve lo regolo. Poi anche basso 9,10 mi pare, non so. Di solito quando mi senti 9,30 vuol dire che sto pompando, ma non è che cambia molto, non è che sale da 9,10 a 9,30, capito? Quindi almeno 9,20 ti devo arrivare, non so. Daniele, dove sei tu? Siamo qua a Zona dell'Italia, qua. A Marcaglia, sì. Cappa. Quanto ti sta arrivando? Qua, mi stai facendo passaggio. Guarda a vedere quanto è il segnale da te così per fare una differenza, visto che tu c'hai l'antenna piccola, quant'è? Stai arrivando quasi a fondo scala, Cla. Tu quasi a fondo scala. Ma Fra, troppo basso, è 9,10, è troppo basso la tua zona. Sì, davanti a me. Aspetta. No, ma è così. Sta uscendo basso tu. Perché se sollevi anche di pochi watt ce la fa arrivare a 20, Vabbè, qui sono 20, 30, no, 30 watt. Adesso già si vede la differenza, un pochettino già salito. Gappa, vabbè, lasciamo stare così. Il televisore si sente, no? Io non attacco mai questo SM20 perché è un bel sensibile. Ehi, ho tolto tutti gli attenuatori e si è tornato al segnale di prima. Ok, va bene, dai, riprendo con l'altro. Ciao, mai Gianni. Aiuto, revival. Revival, aiuto, ci abbiamo altro da fare a pezzi, Non so dei bei ricordi, che farà pizza. Dei bei ricordi, mi sono fatto tanto di quelle risate quel periodo, guarda, quando c'è già una persona che entrava, era troppo forte. Già lo so, io che dovevo sopportare, ce l'avevo a 100 metri. Lui, padre Francesco, te ne ricordo. Tira il cordone. Se vuoi la soluzione tira sto cordone, dicevo. Allora. Ma già, c'era un bel di Giannetti, un bel. Io avevo mollato un po' perché era troppo allucinante la cosa. Poi mi ero buttato un po' nei radiomattoni, avevo frequentato la sezione, tra Interval, Termato, tutti quanti. Nel 92 mi avevo preso la prima licenza. Ero un po' assente, diciamo, vi ascoltavo ma non entravo. Poi invece così sono rientrato e adesso sto facendo più attività 27 che attività materiale. E diciamo che allora c'erano anche gli scoppi, c'erano le donne, c'erano i ragazzi che conoscevi, ecco. Già, Claudio, ma dai un controllo di radio, di questa radio. Vabbè, ce ne ho il 920 qua. No, la radio voglio sapere, vabbè, il segnale poco mi interessa. Voglio sapere se è una radio che può andare oppure posso sollevarlo ancora. Per me così può andare. Cappa, lì può andare, a te già? Sì, va benissimo, chiara. Perfetto, ok. C'è l'apparecchio di Luca. E così come? Quale? Prova la volta. Dalla mattina si senti molto la medaglione che fa da là. Brutta, brutta. È un bel cup, anche io la sento cup. Anche quando sto la famiglia è tutto uguale. Se la radio è tra quella. Questa è quella di Luca, l'ho tutta quanta sistemata. La quale? La piccola. La piccola è il 430. K. Sì, ma è sempre cup la sento. Può andare, ma è sempre... Ha sempre questi accorgimenti sul cupo, non lo so. Prova così a vedere che l'ho sollevato un po'. Prova ancora. A sollevarla ancora? Peggio. Peggio, addirittura. Prova, ora. Prova. No, te l'ho detto Gianni. È peggio, più sollevi è peggio. Io glielo ho già detto a lui. Ma le cupa sembra che sia compressa, però non lo è, sembra che strappi, cioè c'è una modulazione molto strana quella, ragazzi, un bene. Questo mi dorà qua? Sì, vabbè. Però mi casino la centralina, che fa ascolto. Non è stato una cosa che mi piace in una lista. Non ci credo. Non ci posso credere. Cosa? Che mi si accende la centralina. Lo sta cercando, mi ero proprio... Mi sentono tutti le persone all'intorno, non penso, non c'è un problema di potere. Poi nel quadro mi ho di tutto, per prendere di adesso la situazione. Bello con l'impianto, lucio. Sai perché? Perché sicuramente è agganciato in una posizione, in un cavo elettrico, dove alimenta qualche sensore o qualche cosa di centralina. Non lo so. Il positivo, la massa, tutti e due sono attaccati alla batteria. Sì, sono la batteria. No, la massa vuole attaccata alla carrozzeria, non alla batteria. E poi lo controllo domani, quando la faccio. Era così anche prima, quindi adesso ho tutta una tua busta. Ma ce l'ho così a tutti i dinti. No, mi stai intervenendo tutto. Già va bene, già va bene. No, io ho questo 60, si sente un bel sottofondo, cioè l'SM20, è un bel forte come modulazione, però sente troppo il sottofondo. Perché provo a attaccargli le superfici a quel cacla, cosa succede? Prova, per lui ho le regolazioni come questa. Niente, e io un'altra già siamo qua, prova la cipolla. Questa già iniziasse una radio. Come si è messo con le mic game? Con il microfono è sempre al massimo perché la tengo per l'icon. Mic game è a 4. Solleva. Prova, ora, prova. Gridare, parla piano, se trattavo la ora, prova, parla normale, così come mangi. Va bene, così poi come mangio, guarda un po' a vedere se va bene, se no lo abbasso un pochettino. Come va? Allora, oggi ho mangiato pasta asciutta e salsiccione. Allora, se esce così Luca, come stai scendo tu adesso, per me è un'ottima radio, per me, con l'SM20 però, con l'SM20, con l'MC60 fa cagare. Gianni? No, va bene. Va bene, allora lo sgancio là. Che differenza c'è? Diciamo che abbiamo lo stesso microfono e quasi la stessa radio, che differenza c'è? La Alto c'ha più acuti, lui c'ha più bassi. È quello che devi eliminare in quella radio, fa. Devi cercare di togliere i bassi, di farli appena appena di più acuti, perché quella radio non c'ha acuti. Adesso lo scarrasso dentro, vedrai già funziona. Via, va bene. Ma magari la timbrica anche dalla voce, l'altra è più squillante, perché c'ha più acuti. La sua rimane più corposa, però con meno acuti. Ma diciamo che da come usciva poco fa per l'M60 l'SM20 va molto bene. C'è un abbinamento allucinante in computer, veramente. Io l'avevo scoperto più di 10 anni fa, quando per caso così avevo un microfono della Icom che era l'SM8 e gliel'attaccai proprio al 430, ma mi avevano fatto tutti i complimenti, dice non ci credo che hai abbinato un Icom col Kenwood. E da lì ho iniziato a capire qual era veramente la, gli abbinamenti, quali sono veramente gli abbinamenti microfonici, perché ce ne sono altri. Se tu provi lo IAESU, l'MD1B8 ad esempio con l'Icom va molto bene, l'MD100 col Kenwood va molto bene. Ci devi perdere un po' di tempo per fare le regolazioni sotto, perché questi tipi di microfoni hanno anche la regolazione sotto, quindi devi regolare prima sotto, col mic gain quasi a zero, e poi iniziare a sollevare piano piano il mic gain della radio, ti dà una radio fenomenale. Ma come questa non ce n'è, mi dispiace. Come questa chi? Come questa qua. Cos'è? Il mio gioiellino 726 con l'SM20 sempre a Londra. Ma quando te lo dici io tu non mi credesti. Va bene, vai già, vai, c'è cioè, che punto è questo tuo disco 57%. Adesso sai cosa faccio già? Ne elimino tutti gli MC60, me li conservo e mi prendo altre due SM20, uno sul 140 e uno sul 440, perché questo è dell'ICOM, c'è l'adattatore, capito? Me li faccio mangiare già con la connessione pronta per il cable dell'Alfredo e basta. Uso tutto SM20, tutto SM20. Ma perché diverse connessioni? C'è un filo da sotto per cambiare. Fino a cambiare, perché quello del 16S è solo importante, funziona il DAN e app, funziona tutto, ma è importante. C'è da investire un filo, siccome c'è l'alimentazione, è meglio che sia fatto la persona competente, se no rischi di bruciare, sia la radio che il microfono. Vabbè, pagata. C'è anche Davide, se no si addormenta. Davide, Daniele c'è. Ma Daniele non ha fatto QRT? QRT ha fatto. Tutto sta andando a portare mentale. Così ho capito. No, e ci sono, e stanno da adesso, dai, in quel RT che davanti al Reale presto. Niente, sì, ciao, dai, ci sentiamo in quel RT. Ho già sostenuto la Siria, ancora non sono con la pertanza. Anzi, adesso accendo la pelle e farla scaldare, così quando mi curico già caldo. Ricavati troppo i piedi, pesamente. Stato duro, no, invece tu sei accoccato. Ma io non sono rimasto qua, forse sta bene, sto guardando la TV, adesso c'è la radio anche dentro, è perché ho attaccato questo, stavo facendo prove, si è fatto tardi, non sono rimasto qua. E anche mamma si addormentava così, no? Piano piano gli scendeva la testa, quando si televisa, dun, si parava, quando stava proprio a pensare, andava un colpo sul tavolo, e si svegliava di collo. Non glielo facevo io così, si clamaiava nella sedia. Una volta si stava dondolando, ma tutto casino che ha fatto, dietro la sedia c'era il frigorifero, ha preso, stava cadendo dalla sedia che si è attaccata la tovaglia, la lampada, il minestrone, tutto casino. Il piatto in terra, un casino. Me lo immagino. Non è a casino che stiamo facendo stasera, perché non c'è il computer, mi sembra sarebbe stato tutti là sul fango, si perprende. Oh, hai fatto a mettere un altro, e vedi che risolvi il problema. No, ma io sono in cuffia, no, se non è che lo sentite voi il casino del mio figlio che sta giocando. Infatti già si intende. Beh, allora ci amplifica questo microfono. Perché non amplifica? Va bene. Io invece gli ho telefonato e ho detto che sono deluso da questo microfono. Ah, già va bene, già. Oh, adesso mi sta arrivando l'altro con l'eco, come quello che c'è in macchina. E lo metti lì? Io. Voglio vedere come va, perché adesso questo apparecchio è rifinito tutto. L'ho portato al verniciatore, ma l'ha fatto un bombo. Quale? La Fayette o il Medici? No, la Fayette è nuova, c'è un grafico, è proprio perfetto. È l'Unidel. Certo, io. Vabbè. E lì ti, vabbè, perché tu lo usi con Riccardo, però lì va bene anche quando sei in piedi e stare più freddo. Il Tarak 3 ce l'ho sulla Fayette. L'MVP5 è sul Svizzera. Ah, gappa. Qua ci sono tre stazioni. Io c'ho tutta la linea completa del 140, ce l'ho la camera da letto. MC60, TD50, colonnina 140. E quella è uno spettacolo da vedere, nuova. Tutta la TD50 nuovissima. E qua c'ho il 440 con l'altro MC60, due SM20, l'MD100, il TAR più 3 e l'MD1B8. E io manco va bene così, non sta tensione debole, perché se poi attacco un fatto e disturbo magari e si attacca di nuovo la cornacchia e non ne ho voglia di lottare. Va bene questa stazioncina che c'è, se riesco tutti con 5 watt di apparecchi, quindi vanno bene. Sì, va grande. Ho visto con lui, adesso l'ho arrivato anche in Spagna, va bene, no, a Parigi. Ah, va bene. Ma io sono arrivato a Landrica, non quello. Comunque lui adesso è un bel nuovo, ma proprio perfetto, l'ha fatto in un modo, ci ha messo proprio il cuore. Sai cosa gli ho detto per farmelo bene, non ne ha paura? Ho detto che dovevo presentarmi con gli apparecchi a una fiera dove c'era una mostra di apparecchi. Aspettate! Una fiera di apparecchi. Tutto in camera da letto, quelli nei gabbo. Già c'erai grande la casa adesso. Perché a voi gli piace ascoltare, no? Non mi piace rompere. Stavo dicendo che vi ho detto che praticamente devo portarla a una fiera dove c'era una mostra di apparecchi antichi, capito? Che doveva essere perfetto. Quindi te l'ha fatto nuovo. Proprio qua. Mi ha soddisfatto in pieno, non c'ha una briciola di sgocciola, niente, proprio perfetto. E poi me l'ha fatto satinato. Proprio fatto benissimo. Ma te l'ho uscito originale? No, ma proprio sembra fatto dalla fabbrica. Perché l'hai portato? A Porto Torres l'ho portato, da quello che c'è via Sassari. Ah, capito, con qualche sole l'hai portato. E allora, sai il coppino che ho smontato, le vittime le ho verniciate io prima di portarlo. Le ho messe, ho bucato un pezzo di cartone, con le vittime, le ho messo un pezzo di cartone e le ho verniciate, le ho fatte perfette. Anche le vittime, guarda che sono proprio fissate. Le cose non ho fatte bene. No, io la radio ce l'ho tutte a posto, non c'è niente di anormale, sono tutte ok. Tutte ok, anche il 250 è praticamente in originale. Cioè vabbè, adesso non c'è quello che devo fare, devo prendermi, te l'ho detto. Faccio tutto SM20, così ho tutti i microfoni uguali, tutti neri. E gli MC60 li conservo. In ciò così, fare le prove. Cappa di Rosmetro. Capito? Caro Franco, così è. Già va bene qua, già va bene. Va bene. No, pensavo che te li vendessi, no, fai bene a tenerli. Oh, non lo so. Andarsi, che uno lo vende con quei soldi, mi prendo, tanto mi serve un altro di SM20, adesso vediamo. K, adesso io devo vedere, perché a me me ne manca uno. E anche a me, adesso questo l'ho messo, vabbè, c'è una prova che ho fatto, non avevo dubbi, ma l'ho messo sul coso, sul 440, e quindi c'ho il 275A perché c'è il microfono normale attaccato, già lo uso poco con la radio, non è che invece sul 475 è in LPD, lo uso di più, in UHF c'è l'altro SM20 e poi c'è un MC60 qua, e fermo l'altro MC60 è attaccato al 140. No, io l'ho messo per me per il 700, anche per l'800 ce l'ho. Bravo. Lui. Sai che ti devo dire una cosa, mia moglie? Dimmi. Ascolta, nell'altro me lo puoi mettere il sistema operativo che c'ho io a casa? Nell'altro disco? Sì, perché quello che ho non mi fa gli aggiornamenti, è graccato e la Microsoft lo riconosce. Ma non c'è problema, te lo faccio io quello. Lo cracco io domani mattina. E per il CD? No, non ne ho bisogno di CD. No, ti faccio questo che c'è già installato. Allora, nell'80 devi mettere il sistema operativo e nell'altro l'archivio rimane. Allora, in quello dell'80 c'è già il sistema operativo, ma non ti fa gli aggiornamenti, quelli ci penso io domani mattina. In quello del 120 te lo lascio vuoto. Esatto, ma il sistema operativo me lo rimetti con il CD che c'ho io? Perché scusa, quello che c'è non è del CD che c'è tu. Ora cosa? No, ho detto, il sistema operativo c'è installato con quello dell'80, scusa Claudio per il ping pong. È quello che avete voi il CD? Io a casa, ma non è quello che ho installato io, ne ho un altro di CD a casa. Vabbè, ma sempre la licenza ci vuole. Quello che ci ha creato la licenza c'è. Sì. Allora, mi basta soltanto il numero a me. Sì. Come te lo faccio avere? Come me lo devi far avere? Già il mio numero c'hai. Come hai detto, non ho capito. No, se Gianni c'ha il mio numero di telefono. No, non ce l'ha, dagli il tuo numero. Eh sì, così fai questa parola. Vabbè, dai. Al limite chiama Natalino domani mattina. Natalino ce l'ha? Sì, o Natalino o Claudio. Ah, va bene, ok. Sì, ma cosa vi guadagno io? Saluto a tutti, ciao. Ciao, ma cosa ci guadagni io fra? Adesso un'orata, una botta, un dentice, già pagato, va bene, già la faccio vedere a Gianni, già pagato, e quando è terminato c'è aggiornare questo qua, c'è aggiornare tutto la parte del coso, come si dice, che mi sta richiedendo, sempre mi richiede l'aggiornamento dell'antivirus e poi vabbè sono delle cosettine da rivedere. Ecco, quello appena ti metto la DSL perché sennò me lo devo portare via. No, già non ne ho fatto. Tanto sempre spento, ogni tanto lo accendo così. C'ho ancora collegato il GPRS. Appena devo passare il cavo, trovate. Vogliono la presa dal salone vicino al computer, se no non me ne attaccano di essere. Non la fanno loro questi lavori, loro vogliono tutto pronto, vengono, collegano, ti installano la DSL, fanno la configurazione e se ne andano. E poi già ti arriva il bollettino a pagare. Ah, va. Adesso che me l'hai ricordato lo cerco, così te lo tengo pronto. Ehi, ehi, ti appare l'oggi. Vai Gianni. Ma conveniente questo affare qua, qua. Conveniente sì, già, è l'unica compagnia che ho trovato, grazie a Dio. Mi hanno mandato il preventivo, guarda, ce l'ho qua. Allora, ce l'ho qua, hoteli a Vola, DSL più telefonia. C'è il telefono gratis, poi c'è la DSL 24 su 24 a 39,90. IVA inclusa al mese, la DSL lavora a 4 megabyte, più le telefonate gratuite del telefono, con telefono gratis e numero a 7 cifre, tutto loro fanno, ti lasciano il telefono, ti installano tutto e puoi telefonare come se sei collegato alla telecom, in più hai la DSL gratis 24 su 24. E paghi 39,90 praticamente 40 euro con la tassa. E Telecom non la paghi? No, no, è una linea loro questa, è Utelia. E Utelia Vola si chiama. Questa è una nuova compagnia, c'è un numero della gente di zona. Senta, vedi, con Utelia ti liberi dal canone Telecom, mantenendo, se vuoi puoi mantenere anche il tuo numero di telefono. Solo io telefono, no, quindi me lo danno loro nuovo. È l'unica compagnia che ho trovato. Va dato Mario Masso è questo. È l'unica che ho trovato, grazie a Dio. Ti dispari, voleva un sacco di balle, un sacco di cose, te lo lascio a perdere. Mia moglie non la conosceva nemmeno, ho detto che però non la conoscevamo nemmeno, figurati, ma non è di qua. Non so, Franco la conosce. Di dove è che te lo tiri a fare? No, no, è una... sono delle agenzie, c'è anche a Sassari. E come assistenza, quello è il problema. È che se io lo faccio con Telecom, c'è un amico che lavora alla Telecom. E ogni momento che io lo chiamo viene e non ci sono problemi. Ma aiuti, via, che assistenza mi dà? No, uguale. Uguale. Che perché... Utelia si usa, però c'è dei server abbastanza buoni. Non è stata pubblicizzata niente questa cosa qua. È una cosa pubblicizzata, insomma, quindi ognuno ce l'ha quel suo mulino. La gente ancora non sa che le linee sono tutte Telecom. Sì, vabbè, quello si sa. Tutti usufruiscono dalle pettitori loro, eccetera, eccetera. Perché cambiano sono i server e ognuno si gestisce il suo. Allora, e poi magari quelle ditte lì, tipo Unitel, eccetera, eccetera, pagano la Telecom per usufruire dei loro ripetitori, delle loro cose. Allora. È tutto così, è pagato. Quindi adesso fra tutti e due i sistemi vanno bene. Sì, è quasi pronto, è al 90%, poi li faccio, li controllo, gli do una controllata generale a tutto. No, penso che non ci sono problemi, è partito subito, quindi. Quindi non era la scheda? No, no, anche perché ho fatto il testo prima. Vabbè, mi sono rincuorato. Perché qua si muore senza computer, lo sai, che è una specie di cuore della casa. Sì, già, però io prima di dire una cosa ci penso 10 volte, capito? Quindi io prima vado, controllo, poi se i problemi sono altri, io dico i problemi, non... Beh, è giusto che sia così, se una persona è seria fa così, poi uno può dire ho cambiato questo attraverso l'altro, che noi che ne sappiamo. Certo, sono troppo seria, io già faccio a fare tutto meglio. Beh, poi... Cioè uno se lo voglia a te, se ti rifà il lavoro come si deve, ritorna. Se vede che magari per un motivo ci si dà vita, torna più normale. E con i clienti è così, c'è poco da fare. Se il cliente è soddisfatto ci ritorna. Io per dire, mi servo in una ditta milanese e sono anni che compro roba. Adesso da poco le ho acquistato l'apparecchio e anche il microfono. E mi hanno fatto anche lo sconto. E così bisogna fare. Vai qua. Altre maglie di SM20 che nasce lui e stavo schiacciando altro. Gatta, gatta. Ma io mi sono informato già, è una compagnia molto seria. Poi c'era l'ufficio qua a Sassari, c'hanno tutto. E ognuno, come ha detto Franco, gestisce il proprio server, quindi non ci sono problemi. C'era Mario Masse. Hanno fatto tutto in pochissimo tempo. A me mi hanno detto, guarda, appena lì è pronto, lui ci fa trovare la presa sotto il telefono. La mia sfortuna è che in questa stanza ha preso il telefono, ce l'ha nel salone. E come devo bucare il muro, passare il cavo, tutto sotto, che non si veda niente, capito, portare la linea del telefono qua. Se no sarei stato già pronto. Ecco. No, io posso attaccare anche il telefono al computer. No, anch'io, non c'è problema. Però loro vogliono la presa, quella che c'è attaccata al muro dove tu inserisci la presa del telefono. Quella loro la vogliono. Attaccata al computer, vicino al computer, capito? Ok, ragazzi. È un problema. Io già salone nella cameretta e gli ho tolto lo zoccolo, gli ho fatto il buco, gli ho fatto entrare il filo, poi l'ho fatto passare tutto sotto lo zoccolo, l'ho rifilato lo zoccolo, l'ho rimesso, non si vede niente. Ma tu c'hai il legno, io ho dato scopa qua e è stato rifatto tutto ed è tutto in ceramica, quindi come faccio? Siccome il filo è fine, lo faccio passare dal salone dalla dispensa, buco il muro, faccio entrare con la dispensa lo faccio entrare qua in questa stanza, capito? Se no me l'avrebbero già attaccato già dalla settimana scorsa. Infatti mi ha telefonato il rappresentante, ma a qualche punto ha detto: guardi, sinceramente parlando non ho fatto proprio un accidente, perché sono impegnato al lavoro, ho avuto altri impegni, ma detto vabbè, allora rimaniamo ancora così lì, appena è pronto ci telefono e mandiamo gli operatori, vengono e le installano tutto. Sono anche cordiali, quando ci sono soluti lei cercano pure lì. Gente tranquilla, non ci sono problemi. Tra l'altro sono andati da Mario, abbiamo fatto tutto il pochissimo tempo. Ma ho detto no, perché, ma non le facciamo noi, perché se ci mettiamo a fare anche gli impianti, allora non perdiamo col tempo. Invece lì ci fa trovare la presa a 2 metri, a 1 metro dal computer, non c'è problema. Capito? Si fa trovare lì, noi veniamo, attacchiamo, colleghiamo i fili, chiamiamo la centrale e lì è operativo. Al momento, prima di andare via l'operatore, lì è già operativo con la nostra compagnia. Ma non c'è bisogno di presa, tu praticamente ti puoi mettere anche tipo con le ciabatte che invece che per l'elettrico vanno bene per il telefono. Lo so già, ma mi rimane questo filo in mezzo ai piedi, voglio fare un lavoro fatto bene, capito? Non le vuole vedere Anna lì, già lo vedi come lavoro io. Personalmente la radio in camera da letto, va, 20 anni ci ho messo, 20 anni. Perché ho detto, va, se non ti va bene, va fatto. Quando ho visto lavoro finito, ho detto, ma i capi non ce n'è qui. Sì che ci sono i capi, li vedi? No. E allora, vedi, adesso tu non mi fai fare a me. Bucato il muro, ho fatto passare i cavi dell'antenna tutto dietro l'armadio con una canaletta attaccata al muro a silicone, fatto bene, non si vede niente, nulla, non vedi niente, sembra che questa radio non ci abbia cavi, vedi solo il cavo dell'alimentatore che ha attaccato la presa, basta. Adesso le prendo la disci per il canale che non esci di più, se attacchi al muro non escono più, capito? Hanno un adesivo potentissimo che non ti fa nemmeno muovere, poi tutto male che vada, non sai che cosa, li metti 2 chiodini e via. Però almeno c'hai, io avevo già fatto tutto per lo stereo, quando abbiamo cambiato la sala avevo le casse sopra il mobile, no? Una l'ha attaccata dall'altra, mia moglie non le voleva lì, allora le volevo appendere praticamente al muro, dietro il divano, metterle così appese e farle passare il filo con questa canaletta. Avevo già pensato tutto, canaletta e tutto, non gli è piaciuto, ho dovuto disfare tutto. E abbiamo fatto fare delle pedane con le rotelle, in modo che quando deve spazzare in terra lui può spostare tutto, e le abbiamo messo queste pedane qua. Infatti io volevo mettere una bella mensola color rover e non mi piaceva neanche lì. Allora da Conferrano ho preso un carrellino del colore della camera da letto con le ruote lo stesso e la radio sopra, l'alimentatore sotto perché i 2 piani, perché addirittura c'è anche il porta riviste e mi sono messo tutte le radio riviste che ce le ho tutte conservate. Però lì quando deve pulire c'ha le ruote, quindi lo sposta, pulisce eccetera, capito? Non dà nessun fastidio. Lo può anche staccare addirittura perché stacca la presa dell'alimentatore, i cavi sono tutti attaccati al carrellino, non si vede niente. Ma non sono fatto un bel lavoro. Già va bene così, già va bene. Già anche lì me le volevo attaccare al muro, però non so, sono ancora indeciso. Non volevo finire per sentire. Oh già, anche io le voglio appendere al muro le mie. Oh, devo ancora decidere come fare, se mettere catene da imbarco oppure normali. No, perché guarda quanto sto. Ma quelle fanno, poi sono anche un po' la macchina. Beh, le mie sono piccole di dimensione, ma grosse di potenza, 200 watt. Poi, 200 watt neanche le avrei messe. No, già fatto, c'è quella professionale, da quella che usano col cristallo, quella grande grande, per sugar. Vabbè, lui fa anche un tipo di lavoro, diciamo, di hobby, diverso da quello che è. Comunque io lo stereo che c'è a casa va benissimo, è molto potente, è un Panasonic, è piatto Sonic, professionale, no, va molto bene, anche i dischi sentono molto bene. Adesso la prossima, quando fa un po' di bel tempo, mi scendo in sub dell'Otoline da su e me li attacco agli altri, li faccio suonare tutti e quattro, voglio vedere che risuona. E il mio addirittura c'è il super woofer. Con la doppia bobina. Boh, non lo so, però c'è scritto super woofer, tu abbassi un pulsante e ti dà sub, e poi lo abbassi di nuovo e ti dà super woofer. E si intende un bel. Guarda, sul mobile andava benissimo, l'impianto sentiva una canonata, perché le avevo messo le casse, non le avevo messe dritte, posso di farlo, le avevo messe praticamente in modo che prendesse tutta la stanza, una, diciamo, di sbiecola, e praticamente sentivo la musica in tutta la stanza, c'era un suono che era favoloso, faceva l'effetto sul round e andava benissimo. Solo che niente, con la sole donna di mezzo è un po' valuta. E anch'io ce le ho grosse per il computer, però qua ce l'ho ancora in scatola, non ho neanche aperte ancora, le avevo prese giusto perché mi piace con esteticamente, ma in male che mi rivendo. E qua la musica si ascolta parecchio, ma non è la più fissata, canta, quindi piace un bel, gli piace il karaoke, gli piace tutte queste cose, sta sempre cantando a casa, infatti, ma non solo Manuela, c'è un periodo che cantava lei, cantava mia moglie, cantava Marco, cantavo io, poi c'erano tagliatoriali, perché con i suoi 18 è venuto, c'è detto cosa il giorno alle 6 di sera, che la figlia doveva studiare, ho detto scusi, ma sono le 6, se non lo chiede per cortesia un conto, se no io non sono ritenuto a spegnere niente. Insomma, ci hanno trovato le panni e da quel giorno lì ci è venuta la paranoia e non l'abbiamo più acceso. Aspetta che faccio scusate una cosa, un attimo. Avanti, che voi non cantate a casa. Scusa? Ho detto non cantate voi a casa. Qualche volta l'aria si mette, ma no, niente di particolare. Vabbè, io vi saluto domani, se no mi canta lo buco, sono già le 11, passate. Ci sentiamo signori, statevi bene, come dico Longhero, amusantenda, fatevi sentire, ci sentiamo domani. Ciao a tutti, quello di per me, saluto anche quelli che sono all'ascolto sui canali 10, bye bye. Ciao, ci sentiamo domani. Ciao, ci sentiamo domani. E anche io chiudo già così finisco questa roba, sennò poi finisco troppo tardi. Ci sentiamo domani. Ok, chiamami se, sennò già ci penso io. Ciao. Buonanotte, ciao. Chi è rimasto su 10? Ok, buonanotte a tutti, allora, ascoltori. Ciao, buonanotte, ciao.